Le intermittenze del cuore. Il mio secondo arrivo a Baalbek fu molto diverso dal primo. Il direttore, venuto in persona ad aspettarmi a Pont-à-Couleuvre, non si stancava di ripetere quanto tenesse alla sua clientela titolata, facendomi temere che m'attribuisse una qualche nobiltà fino a quando non intuii che nelle tenebre della sua memoria grammaticale titolato significava semplicemente abituale. Del resto, man mano che imparava nuove lingue, parlava sempre peggio le vecchie. M'annunciò d'avermi sistemato all'ultimo piano dell'albergo. «Spero», soggiunse, «che non vedrete in questo una mancanza di scortesia. Mi dispiaceva darvi una camera di cui siete indegno, ma l'ho fatto in considerazione del rumore, perché così non avrete nessuno sopra di voi ad affaticarvi i trapani», voleva dire i timpani. «Restate tranquillo, farò chiudere le finestre perché non sbattano. Su questo io sono intollerabile». Parole che non esprimevano tanto suo pensiero, e cioè che egli sarebbe stato su quel punto assolutamente inflessibile, quanto forse quello dei suoi camerieri. Le camere, d'altronde, erano le stesse del primo soggiorno. Non erano calate di livello, ero cresciuto io nella stima del direttore. Avrei potuto far accendere il fuoco se volevo, avendo per ordine dei medici anticipato a Pasqua la partenza, ma temeva che ci fosse qualche fissura nel soffitto. Soprattutto, prima di accendere una fiammata, aspettate sempre che la precedente si sia stinta, per estinta. L'importante è evitare che non prenda fuoco il caminetto, tanto più che per rallegrare un po' l'ambiente ci ho fatto mettere sopra un grande vaso di procellaria cinese che potrebbe rovinarsi. Mi annunciò anche con profonda tristezza la morte del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cherbourg. Era, commentò, un vecchio gaudioso, probabile deformazione di gaudente, e mi fece capire che la sua fine era stata accelerata da una vita di strazi, da intendersi come stravizi. Già da qualche tempo avevo notato che dopo pranzo s'assorbiva nel salotto, evidentemente s'assopiva. Negli ultimi tempi era talmente cambiato che se non avessi saputo che era lui, a vederlo era quasi irriconoscente, cioè verosimilmente irriconoscibile. A fare da lieto contrappeso, il primo presidente di Caen aveva appena ricevuto la collana di commendatore della Legion d'Onore. Che abbia grandi capacità non si discute, ma sembra che gliel'abbiano data soprattutto a causa della sua grande impotenza. Su questa decorazione, del resto, ci si soffermava nelle Echo de Paris, del giorno prima, di cui il direttore non aveva letto per ora che la prima parafrasi per paragrafo. La politica del signor Caillot vi veniva severamente stigmatizzata. «Trovo del resto che abbiano ragione», osservò il direttore. «Per colpa sua siamo reprobi della Germania, ossia succubi». Poiché argomenti del genere trattati da un albergatore mi sembravano noiosi, smisi d'ascoltare. Pensavo alle immagini che m'avevano fatto decidere di tornare a Baalbek. Erano assai diverse da quelle d'un tempo. La visione che venivo a cercare era tanto smagliante quanto la prima era brumosa. Ne sarei rimasto non meno deluso. Le immagini scelte dal ricordo sono arbitrarie, anguste e inafferrabili quanto quelle che l'immaginazione aveva formate e la realtà distrutte. Non c'è ragione perché, al di fuori di noi, un luogo reale possiede i quadri della memoria piuttosto che del sogno. E poi, una nuova realtà ci farà forse dimenticare o addirittura detestare i desideri per impulso dei quali ci eravamo messi in viaggio. Quelli che m'avevano indotto a partire per Baalbek si riconnettevano in parte al fatto che i Verdurin, dei cui inviti non avevo mai approfittato e che sarebbero stati sicuramente felici di ricevermi se fossi andato da loro in campagna, scusandomi di non averlo potuto fare a Parigi. Poiché parecchi dei loro fedeli passavano le vacanze su quella costa, avevano preso in affitto per tutta la stagione uno dei castelli del signor di Cambremer, la Raspellière, e vi avevano invitato Madame Putbus. La sera in cui a Parigi l'avevo saputo, avevo commesso l'autentica follia di mandare il nostro giovane lacchè a informarsi se la baronessa avrebbe portato a Balbec la sua cameriera. Erano le 11 di sera. Il portinaio ci mise un'eternità ad aprire e per puro miracolo non mandò al diavolo il mio emissario, non chiamò la polizia, si limitò a strapazzarlo fornendogli comunque l'informazione richiesta. Disse che in effetti la cameriera personale avrebbe accompagnato la padrona prima alle acque in Germania, poi a Biarritz e per finire da Madame Verdurin. Messa in forno, per così dire, quella pietanza, m'ero finalmente rilassato. Avevo potuto esimermi dai miei inseguimenti stradali, nel corso dei quali le beltà che incontravo mi trovavano sprovvisto di quella credenziale che sarei stato in grado di far valere presso il Giorgione. Aver pranzato la sera stessa in casa Verdurin, assieme alla sua padrona. D'altronde di me si sarebbe forse fatta un'opinione ancora migliore sapendo che conoscevo, oltre ai borghesi affittuari della Raspellière, anche i suoi proprietari e soprattutto Saint-Loup, il quale, non potendo raccomandarmi a distanza alla cameriera, che ignorava il suo nome, aveva scritto per me una lettera calorosa ai Cambremer. Robert pensava che, a parte l'utilità che avrei potuto ricavarne, mi sarebbe interessato conversare con Madame de Cambremer, la nuora nata alle Grandin. «È una donna intelligente», mi aveva assicurato. «Non ti dirà delle cose definitive». Le cose definitive avevano sostituito le cose sublimi nel linguaggio di Robert, che ogni 5-6 anni modificava alcune delle sue locuzioni favorite pur conservando inalterate le principali. Ma ha carattere, personalità, intuito. Dice la frase giusta al momento giusto. Qualche volta è irritante, spara sciocchezze per fare alta società, cosa doppiamente ridicola perché c'è poca gente meno elegante dei Cambremer. E non sempre è alla page, ma insomma resta comunque una delle persone più sopportabili da frequentare. Non appena ricevuta la raccomandazione di Robert, i Cambremer, o per snobismo, volendo cioè mostrarsi indirettamente gentili con Saint-Loup, o per riconoscenza, grati di quanto egli aveva fatto a Doncier a favore di un loro nipote, o più probabilmente per bontà d'animo e tradizioni di ospitalità, mi avevano indirizzato una serie di lunghe lettere proponendomi di andare ad abitare da loro, o se preferivo essere più indipendente, offrendosi di cercarmi un alloggio. Quando Saint-Loup fece presente che mi sarei sistemato al Grand Hotel di Balbec, risposero che perlomeno aspettavano una mia visita appena fossi arrivato e se non mi fossi fatto vivo presto, non avrebbero mancato di venire a scovarmi per invitarmi ai loro garden parties. Niente certo collegava in modo essenziale la cameriera di Madame Putbus al paese di Balbec. Non sarebbe mai stata, lì ai miei occhi, l'equivalente della contadina che, solitario sulla strada di Meseglise, avevo imboccata così spesso invano, con tutto lo slancio del mio desiderio. Ma da molto tempo non cercavo più di estrarre da una donna la radice quadrata del suo mistero, che il più delle volte non sopravviveva a una semplice presentazione. A Balbec, dove non andavo da un pezzo, avrei almeno avuto, in mancanza del rapporto di necessità inconcepibile fra il paese e quella donna, un vantaggio. Il senso della realtà non mi sarebbe stato sottratto dall'abitudine come avveniva a Parigi, dove, sia nella mia casa, sia in una camera nota, non potevo neanche momentaneamente illudermi, fra tanti oggetti quotidiani, che il piacere provato accanto a una donna mi schiudesse l'accesso a una nuova vita. L'abitudine, infatti, se è una seconda natura, ci impedisce tuttavia di conoscere la prima, di cui non possiede né le crudeltà né gli incanti. Ebbene, avrei forse potuto coltivarla, quell'illusione, in un paese nuovo, dove la sensibilità rinasce davanti a un raggio di sole e dove, appunto, la cameriera che desideravo avrebbe portato al culmine la mia esaltazione. Ora, come si vedrà, le circostanze fecero sì non soltanto che costei non venisse a Balbec, ma che io ne temessi la venuta più di ogni altra cosa. per cui il principale obiettivo del mio viaggio non solo non fu raggiunto, ma nemmeno perseguito. Madame Putbus non era certo attesa per l'inizio della stagione a casa dei Verdurin, ma i piaceri sui quali è caduta la nostra scelta possono ben essere lontani se il loro avvento è assicurato e se, aspettandoli, possiamo pigramente cercare di piacere agli altri e abbandonarci all'impossibilità d'amare. Del resto, non ero venuto a Balbec con la disposizione poetica della prima volta. Nella pura immaginazione c'è sempre meno egoismo che nel ricordo, e non ignoravo di trovarmi precisamente in una di quelle località che pullulano di belle sconosciute. Una spiaggia non ne offre meno d'un ballo, e già pregustavo le passeggiate davanti all'albergo, lungo la diga, con un sentimento analogo a quello che mi avrebbe ispirato Madame Germain, se invece di farmi invitare a pranzi brillanti, avesse segnalato più spesso il mio nome per le liste dei cavalieri alle padrone di casa che organizzavano dei balli. Fare conoscenze femminili a Balbec sarebbe stato di una facilità pari alla difficoltà d'un tempo, dal momento che potevo contare adesso su tutti gli appoggi e le relazioni di cui allora ero sprovvisto. Fui strappato alle mie fantasticherie dalla voce del direttore, di cui non ero stato ad ascoltare le dissertazioni politiche. Cambiando argomento, mi parlò della gioia del primo presidente alla notizia del mio arrivo e della sua intenzione di venire a trovarmi la sera stessa in camera mia. La prospettiva di quella visita, proprio ora che cominciavo a sentirmi stanco, mi atterrì a tal punto che pregai il direttore di impedirla in qualche modo, mi promise il suo aiuto, e per maggior sicurezza di mettere di guardia al mio piano, per la prima sera, i suoi dipendenti. Si sarebbe detto che non li amasse molto. Sono costretto a corrergli dietro tutto il tempo perché mancano troppo di inerzia. Se non li controllassi starebbero sempre fermi. Metterò l'addetto all'ascensore di piantone alla vostra porta. Gli chiesi se fosse diventato finalmente capofattorino. Non è ancora abbastanza vecchio nella ditta, mi rispose. Ha dei colleghi più anziani di lui. Nascerebbe uno scandalo. In ogni cosa bisogna andare per grani. Riconosco che davanti all'ascensore ha un ritegno, per contegno, soddisfacente, ma è ancora troppo giovane per responsabilità del genere. Farebbe contrasto con certi altri che sono troppo vecchi. E poi gli manca un po' di serietà, che è la qualità primitiva, cioè presumibilmente la qualità primaria, la qualità più importante. Deve macerare ancora un po', il mio interlocutore intendeva dire maturare. Del resto basta che si fidi di me, me ne intendo. Prima di prendermi i galloni come direttore del Grand Hotel, ho fatto le mie prime armi sotto il signor Payard. Impressionato da questo paragone, ringraziai il direttore d'essere venuto personalmente fino a Pont-à-Couleuvre. Oh, non c'è di che. Non ho perso che poche fregole, cioè briciole, di tempo. In effetti, eravamo già arrivati. Sconvolgimento totale. Già la prima notte, poiché soffrivo di una crisi d'affaticamento cardiaco, nel tentativo di tenere a bada la sofferenza, mi chinai con estrema lentezza e prudenza per togliermi le scarpe. Ma avevo appena sfiorato il primo bottone dello stivaletto che il petto mi si gonfiò. Colmo d'una presenza ignota, divina, fui scosso dai singhiozzi, lacrime mi grondarono dagli occhi. L'essere che accorreva in mio aiuto, che mi salvava dall'aridità dell'anima, era lo stesso che parecchi anni prima, in un momento di sconforto e di solitudini identici, in un momento in cui non ero più io, era entrato e m'aveva restituito a me stesso, giacché era me e più di me, contenente che è più del contenuto, e veniva a portarmelo. Avevo visto nella mia memoria, chino sulla mia stanchezza, il volto tenero, preoccupato e deluso della nonna, così come era stato quella prima sera, appena arrivati. Il volto della nonna. non di quella che m'ero stupito e rimproverato di rimpiangere così poco, e che di lei non aveva che il nome, ma della nonna vera, di cui per la prima volta da quando, ai Champs-Élysées, avevo avuto il primo attacco, ritrovavo, in un ricordo involontario e completo, la viva realtà. Una realtà che non esiste per noi, finché non è stata ricreata dal nostro pensiero, altrimenti tutti gli uomini coinvolti in una battaglia gigantesca sarebbero grandi poeti epici. E così, soltanto in quell'istante, più di un anno dopo il suo funerale, a causa dell'anacronismo che tanto spesso impedisce al calendario dei fatti di coincidere con quello dei sentimenti, in quel desiderio folle di precipitarmi fra le sue braccia, avevo scoperto che era morta. Più volte, da allora, avevo parlato di lei e anche pensato a lei, ma sotto le mie parole e i miei pensieri di giovane ingrato, egoista e crudele, non c'era mai stato nulla che assomigliasse alla nonna, perché nella mia leggerezza, nel mio amore del piacere, nella sua effazione a vederla malata, il ricordo di quel che era stata non lo serbavo in me che allo stato virtuale. In qualsiasi momento la consideriamo, la nostra anima totale non ha che un valore pressoché fittizio, nonostante il nutrito bilancio delle sue ricchezze, giacché ora le une, ora le altre, risultano indisponibili, siano ricchezze effettive oppure immaginarie, e nel mio caso, per esempio, quella dell'antico nome di Germain, come quelle, tanto più gravi, del vero ricordo della nonna.